Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vi raccontavo l'altro giorno quando abbiamo festeggiato il nostro decennale come alla nascita di Radio 24 avesse partecipato Marino Bartoletti nel ruolo, io l'ho definito un po' di levatrice. Oggi che è qua con noi gliene domando conto. Buongiorno Marino. Ciao, buongiorno Gigi, buongiorno a te e tutta all'evoluta tribù dei tuoi ascoltatori. Senti un po', intanto quanto è propria l'espressione levatrice e poi che effetto ti fa questa radio che ormai è in età prepuberale, direi, no? 10 anni più o meno. L'importante è che tu non mi dica questa è casa tua, perché in questi giorni poi potrebbe prestarsi a qualche equivoco l'affermazione. Sì, certo. No, sai bene quanto sia affezionata a quella radio, sai bene che allorché mi venne proposto di partecipare alla chance di guidare il gruppo di lavoro che in qualche modo l'allestì, ne fui particolarmente orgoglioso per l'amore che ho sempre avuto per la radio. Apro una parentesi per dire che è proprio dall'amore per la radio che la nostra generazione ha imparato a guardare, non ascoltare, che è nata anche l'idea di quelli che è il calcio, perché ascoltando e guardando tutto il calcio minuto per minuto, anche se questo non c'entra con Radio 24, un bel giorno mi venne la voglia di trasportarlo e decodificarlo in televisione. Ma tornando a Radio 24, sì, allestimo questa cosa che allora sembrava un pochino stravagante per il panorama editoriale radiofonico dell'epoca, e poi insomma tu sei assieme a tutti i colleghi e bravissimi conduttori la testimonianza che chi volle questa cosa aveva visto giusto. Marino, andiamo con i capitoli di attualità. Oggi ce ne sono molti, infatti stamattina ti ho disturbato prima e precettato affettuosamente poi, perché ce ne sono molti di argomenti che sono in particolare nelle tue corde, secondo me. Uno è il capitolo De Laurentiis. Quest'estate eravamo insieme, l'ultima volta che ci siamo visti tra l'altro, eravamo insieme a Sorrento in occasione di un convegno sullo sport e assistemmo abbastanza allibiti in maniera progressiva a uno show di De Laurentiis che credo fu il giorno in cui disse che Lavezzi non serviva più o qualcosa di questo genere. E prima delle due volte in cui disse che Lavezzi non sarebbe più servito al Napoli. Ecco, la prima delle due. E mi ricordo che tu, insomma, mentre ci squadravamo con l'aria sempre più stupita, tu dicesti una frase che più o meno era: eccone un altro che ha inventato il calcio. Gli eventi di questi giorni ti corroborano questa sensazione di allora o te l'hanno... Ma guarda, per completezza storica, io quella frase la dissi quando poi venne presentato il tuo libro su Rocco e si parlava di una persona che, pur avendo veramente partecipato alla fondazione del calcio nazionale, non se n'è mai arrogato il merito. E in quella poltrona idealmente occupata dal Paron, fino a mezz'ora prima effettivamente c'era stato De Laurentiis che il calcio è convinto di averlo inventato. Non è il solo, Gigi. No, anzi, eccone un altro, dicesti tu, infatti. La compagnia soprattutto dei presidenti è notevolissima. Guarda, lasciami dire una cosa che mi tocca dire. Allora, partiamo comunque da una premessa di riconoscenza nei confronti di quest'uomo, perché è un uomo che salva il Napoli. Deve meritare la riconoscenza non soltanto dei napoletani, ma di tutti coloro che amano il calcio, perché Napoli è un punto decisivo dell'ecosistema del calcio italiano, mi verrebbe da dire del calcio mondiale. L'ecosistema non è male, è vero. Quindi onore al merito di chi ha preso una squadra fallita, precipitata per la prima volta nella sua storia in Serie C, le ha ridato vigore dal punto di vista delle motivazioni, dell'orgoglio e soprattutto delle finanze. E dopodiché però, come dire, si è innamorato un po' troppo del giocattolo e del suo ruolo, per cui soprattutto negli ultimi tempi mi sembra che tenga dei comportamenti che forse mortificano un pochino quelli che sono i suoi meriti straordinari e acquisiti. Si comporta, l'ha scritto qualcuno, come un padrone delle braghe bianche, fra l'altro nascondendosi dietro a preoccupanti anaculuti che mi mettono veramente in difficoltà. Io domenica scorsa ho assistito alla sua performance a Sky e mi sono chiesto se ci fosse stata ancora la giallappa, Gigi, cosa avrebbe fatto sottotitolare le cose come ai tempi di Lugaresi e di Trapattoni. Io non lo capisco, mi rendo conto che sia una mia inadeguatezza, ma non lo capisco perché non so veramente dove voglio andare a parare. A questo aggiungi che, secondo me, forse non esiste in natura un allenatore che possa andare bene a De Laurentiis, neanche un direttore generale, per cui sono già preoccupato per le persone a cui ha affidato la società. Adesso dovrebbe fare una cosa, temo di dover dire innaturale per lui, fare il famoso passo indietro, lasciar lavorare le persone che ha scelto. Perché questa rivoluzione a d'ottobre, tra l'altro, no? Facciamo d'ottobre o non valgono. Sì, certo. Perché ai primi di ottobre e non in estate? Cioè, se davvero Marino si era coperto di colpe così nefande, Ma perché impiegare 2 o 3 mesi in più a capire che tutto era sbagliato, tutto era da rifare, per dirla in maniera bartagliana, e non invece provvedere d'estate, quando in tarda primavera, quando un restyling di questo genere avrebbe avuto più senso e avrebbe avuto più tempo? Perché, e poi finisco con le domande su questo genere, perché anticipare ad ogni costo l'arrivo di Donadoni, bruciandolo verde a parer mio? Perché quando tu chiami un tecnico per l'anno successivo, ma lo metti in una situazione insostenibile come quella che chiunque ereditasse il Napoli a quel punto della stagione, perché complicarsi la vita così? Forse perché, come tanti suoi colleghi, non sa contare fino a 10 o non sa contare fino a 20. Io penso che lo scorso anno avrebbe potuto tranquillamente portare a complimenti il famoso quinquennio con quel galantuomo paziente che era ed è. E direi, che adesso mi sembra di aver capito, che lui rimpiange. Sì, sì, come no, l'ha detto più di una volta. Ecco, io non credo che fosse sbagliata la scelta di Donadoni. Forse gli allenatori dovrebbero essere scelti, come dici tu, all'inizio dell'anno e non a metà stagione. Soprattutto quando si è un po' vittime di, come le vogliamo chiamare, emotività, sì, come sicuramente ne è vittima De Laurentiis. Io credevo sinceramente che lui si fidasse di Pierpaolo Marino, che secondo me era la persona giusta per essere il mediatore perfetto fra i suoi umori positivi e, sì, negativi, e quello che è in qualche modo l'attività della squadra. E invece qui abbiamo una grande potenzialità che mi ricorda quando la Ferrari faceva, parlando di Formula 1, ma la metafora può essere appropriata, motori da 300 cavalli e poi non avevi il telaio per scaricarli a terra, per cui arrivava sempre ultimo in Formula 1. Allora il Napoli ha una potenzialità esplosiva, ha un presidente che adesso potremmo definire di grandi entusiasmi, però dotato fra virgolette di un'autostima che tante volte non è una buona consigliera, unita a una, come la vogliamo chiamare, discreta mancanza di umiltà. Guarda che altri suoi colleghi, non so, Berlusconi, Moratti, che non sono proprio principi della disistima personale, non hanno mai fatto o detto le cose che ha fatto De Laurentiis negli ultimi tempi. Allora anche una vocazione al masochismo che collide comunque con le sue, come lo vogliamo chiamare, col suo talento imprenditoriale, perché in altri campi sicuramente ha fatto delle cose molto importanti. A proposito di quegli altri campi, Leonardo da Firenze trova, e io condivido tra l'altro, trova una somiglianza inquietante, scrive in questo messaggio, con Vittorio Gecchigori, e comincia a mettere sull'avviso, scrive lui, i suoi amici napoletani. Non è solo una comune origine professionale, cioè il produttore cinematografico, è che qualcosina comincia a esserci in effetti. Non ha torto Leonardo, che dici? No, dico che l'unico problema vero, al di là delle contingenze che in questo momento sono leggermente preoccupanti, o lo sarebbero se De Laurentiis non avesse la capacità, che ormai andando 3 mesi a Los Angeles, mica tanto, di lasciar lavorare le persone che ha scelto. Però io ho una paura che De Laurentiis, così come si è innamorato molto facilmente, molto nobilmente della causa Napoli e del Napoli e di Napoli, che è la sua città, se ne possa disamorare per un capriccio. Ecco, questo mi farebbe paura, perché di questo Napoli non ha assolutamente bisogno. Questo è oggettivo. Ricordi che 10 anni fa avevate varato un primo intervallo a quest'ora più o meno per il traffico? Assolutamente, dobbiamo restare anche fedeli a quei dogmi. Torniamo in collegamento con Marino Bartoletti. Secondo capitolo di giornata. Sento e soprattutto leggo critiche sempre più severe a Lippi per le sue convocazioni, per la sua recente, tra l'altro, fedeltà a blocco Juve, per il VAR, l'Unione Nazionale sempre uguale a se stessa, perché non fa la nazionale del campionato, eccetera. E torno indietro di almeno 30 anni, Marino, quando a fare i cronisti della nazionale erano due giovanotti che avevano per l'appunto una trentina d'anni in meno e che eravamo te e io tra i tanti altri, no? Che pascolavano trotticchiando dietro a un grande cronista che si chiamava Franco Mentana, per dirgli il primo che mi viene in mente. Mi fai fare, prima di fare un passo indietro di 30 anni, un passo indietro di pochi giorni a questo punto? Io, almeno in questa sede, voglio esprimere la mia solidarietà e la mia simpatia umana a Donadoni, che ha tre grossi meriti e tre grosse colpe: quelle di aver allenato e di essere stato cacciato da presidenti che si chiamano Spinelli, Abete e De Laurentiis. Sicuramente ha fatto qualcosa per meritare il paradiso. Gli auguro, insomma, che il prossimo presidente sia un pochino più vicino alla sua, come la vogliamo chiamare, coerenza, educazione, gentilezza e maniera di vedere il calcio. Ma tra l'altro il discorso Donadoni ci avvicina in qualche modo anche alla risposta che mi stai sollecitando, perché anche quando Donadoni venne, come dire, allontanato dalla nazionale, sembrava che ci fossero tanti gufi che non aspettavano altro il costo di veder perdere l'Italia agli europei dello scorso anno, e lì non ci furono grandi tratti di eleganza neanche da parte dell'attuale commissario tecnico, al quale comunque, prima di risponderti, un merito va riconosciuto, cioè lui sa come si vince un mondiale, mentre tu, io e le persone, seppur simpatiche e competenti, che ci ascoltano, lo possono soltanto immaginare o lo possono soltanto suggerire. Lui sa come si vince un mondiale, quindi avrà dei sistemi, delle tecniche, delle strategie che in qualche modo spera di ricollaudare, fra le quali, e qui ti rispondo, il desiderio di mantenere la stessa squadra a prescindere dalle contingenze quotidiane. Allora, l'accostamento con Berzot può farmi cadere dalla sedia in cui sono in questo momento, per tanti motivi anche sentimentali, per carità, e so che con te sfondo una porta aperta. Sì. Però fra i dogmi di Berzot c'era quello di fedeltà ai suoi uomini, in particolare agli uomini che provenivano da una certa squadra, che fra l'altro non era un'amica storica per quanto riguarda le tradizioni calcistiche di Berzot, però quegli uomini si chiamavano Zoff, si chiamavano Scirea, si chiamavano Tardelli, si chiamavano Cabrini, ed era forse facile restare loro fedeli. Sì. Ecco, io penso che fra tutti i punti fragili delle attuali strategie di Lippi, al quale comunque dobbiamo essere vicini, perché se va bene la nazionale va bene il calcio italiano e andiamo bene tutti noi che lo raccontiamo, c'è comunque questa forma di coerenza, di fedeltà verso i suoi pretoriani che sinceramente non mi sento di criticare, cioè in questo mi sento di appoggiare. Per un principio che io ricordo, proprio facendo questo balzo indietro di decenni, ricordo che Berzot teorizzava, tra l'altro in maniera più brillante di quanto, e più estroversa se vogliamo, pur lui così chiuso in certi casi, di come non la teorizzi Lippi, e cioè questa: non si può fare, cioè la nazionale è a sua volta un club, una squadra, esattamente come tutte le altre, non puoi cambiarla a ogni partita e rivoluzionarla sulla base di uno che ha fatto gol domenica prima o di uno che è stato più bravo di Buffon, faccio per dire, in porta, a parte che è dura. Quindi è inevitabile che, non essendoci, tra l'altro, essendoci previsti ritiri sempre più brevi e quindi sempre meno allenamenti, come farebbe un CT ad assemblare razionalmente e a far giocare con un minimo di credibilità una nazionale se ogni volta la cambiasse? No, ma guarda, stiamo ovviamente dicendo, come spesso ci accade, le stesse cose. Ci vuole una forma di coerenza, di fedeltà, di rispetto, forse anche di riconoscenza nei confronti di questi uomini. Nel caso di Berzot la riconoscenza forse si protrasse per un mondiale di troppo, sì, però questo l'uomo, sì, l'uomo era quello. In questo caso però mi sembra, ti ripeto, che possiamo per forza essere vicini alle scelte di Lippi, almeno in questo. In altri mi sento di criticarlo un po' di più, sinceramente, in alcune decisioni, soprattutto in alcune omissioni. Lasciami dire che mi ricordo, tu hai ricordato, come dire, un aspetto colorito della gestione di Berzot. Io ricordo invece una volta in cui Apollone, tentacolare località dalle parti tue, in cui si preparava, sì, sì, sì, l'Europeo del 1980, quanti rimpianti per quel club mediterraneo, ti ricordi? Sì, sì, sì. Mi ricordo che in una movimentata conferenza stampa qualcuno disse a Berzot che sì, insomma, ci picchia quel Tardelli, lo si poteva anche lasciare a casa. Berzot morsicchiò la pipa, cercò di contare fino a 10, non ci riuscì, disse soltanto: perché chi metteresti al suo posto? E l'infelice disse Adelio Moro. Venne male il resto della conferenza stampa, venne molto male. Effettivamente. Effettivamente, senti, c'è un altro CT che in questi giorni si sta battendo al Mondiale Under 20, che l'altra sera alla guida di questi ragazzini ha centrato un'impresa, perché comunque far fuori la Spagna, sia pure in circostanze fortunate, è un'impresa. Ho letto stamattina che Francesco Rocca, detto Kawasaki, uno anche lui dei tempi nostri, eccetera, guadagna per allenare questi ragazzi la bellezza di 38.000 euro l'anno. Mi sembrano meno rispetto ad altri suoi colleghi, no? Io so che aborri la demagogia, però è facile dire, sarebbe bello fare una media fra quello che verrà dato, con tanti auguri, a Mazzarri per allenare il Napoli, mi sembra 1,5 milioni di euro, e i suoi 38.000 euro. Ecco, io penso che potrebbero vivere dignitosamente entrambi. La realtà è effettivamente che, rispetto a quelle che sono le quotazioni calcistiche del momento, considerando il ruolo importantissimo, non di allenatore, ma di allevatore che ha Francesco Rocca, insomma, la federazione potrebbe essere un pochino più brillante. Fra l'altro Rocca, lasciami dire, che è stato il terzino sinistro su cui si può dire ancora terzino, veniamo per l'altro. Se tu avessi detto esterno basso con facoltà però di diventare anche alto, forse, ecco, era più appropriato. Ecco, quella roba lì, che è la cosa che manca al Napoli adesso. Sì, a proposito, certo. Che Donadoni aveva chiesto. Insomma, lui fu il terzino su cui aveva investito Bearzot e che purtroppo non poté portare ai mondiali del 78. Poi, per fortuna di Bearzot, visto che le mamme negli anni 50 si erano dati molto da fare, era nato un certo Cabrini che sicuramente fece molto bene quello che non poté fare Rocca, il quale ha in mano i nostri bambini. Cioè si fa tanto chiasso sul fatto che gli insegnanti sono sottopagati, ecco, passami questa metafora, cioè se gli insegnanti venissero scelti meglio, e Rocca sicuramente talento e meriti, e venissero pagati e motivati meglio, forse i nostri bambini crescerebbero un pochino meglio, e anche quelli che si chiamano in questo caso Mustacchio o Fiorilli o dimmi tu. Insomma, il nostro futuro sono questi, non sono quelli che importiamo semilavorati dall'estero. Semilavorati. Prendiamo un'altra pagina di oggi dell'attualità stretta, e cioè il fatto che è bastata una sconfitta a Real Madrid dopo 5 vittorie consecutive in campionato e quelle in Coppa e tutto il resto per mettere sulla graticola l'allenatore Pellegrini, ma non soltanto la tifoseria, gli stessi dirigenti del club. Mi meraviglio molto di Valdano, tra l'altro, a questo proposito. È un po' il discorso di Lippi prima, secondo me, cioè come si fa a pretendere che per quanto siano campioni, se questi campioni nuovi, quasi tutti campioni o campionissimi, sono la maggioranza assoluta della squadra, come si fa a pretendere che la squadra giochi a memoria sin dalle prime giornate? Ma questa gente, che nozione, che cultura ha calcistica alle spalle? In questo caso parliamo di un presidente, quello del Real Madrid, Perez, che aveva già commesso qualche peccato del genere, cioè quello di assemblare delle squadre attraverso l'album delle figurine, soprattutto di quelle con la cornice d'oro, ed è quello che ha rifatto quest'anno, forse ingolosito dal fatto che tornando alla presidenza voleva fare qualcosa di eclatante, forse ingolosito dal fatto che la finale di Coppa dei Campioni, si può dire Coppa dei Campioni, sì, quella ancora sì, per la seconda fase, quando c'è l'eliminazione diretta. Quest'anno si gioca a Madrid, forse ingolosito dal fatto, o depresso, o motivato dal fatto che a Barcellona stavano accadendo cose che la piazza di Madrid non sapeva più controllare, però, viva Dio, la famosa pazienza, quella che De Laurentiis ha dimenticato, forse non conosce, quello che il Real Madrid era stato abituato ad avere, forse dovrebbe tornare di moda anche da quelle parti. Sì. Poi sai, sempre in 11 giocano, anche se si chiamano Ronaldo, anche se si chiamano Kakà, anche se si chiamano Benzema, un minimo di assemblaggio ci vuole. Dunque, ho ereditato una squadra, cioè ho delle dichiarazioni di Maradona sotto gli occhi. Maradona è stato una persona, insomma, è stato una delizia per i nostri occhi per tanti anni, e insomma tu l'hai conosciuto molto da vicino. Dopo la partita con l'Uruguay ha detto: stamane valuterò se continuare o no a essere il CT dell'Argentina. Poi ha raccontato anche che quando Grondona gli diede l'incarico mi ha convocato a casa sua, io gli ho detto che ero l'uomo più felice del mondo, ma poi sono accadute cose che non mi sono piaciute, e quando finirà le qualificazioni gliele dirò. Può darsi che anche Grondona abbia qualcosina di Maradona che non gli è piaciuto in questo periodo. Sì, ricordo che anche molte cose di Grondona non piacevano a Maradona negli anni, per cui il matrimonio già nasceva piuttosto male, sinceramente. Io, come sai, ho voluto e voglio molto bene a questo ragazzo. C'è un dogma per cui comunque difficilmente quelli che sono stati grandi campioni sul campo poi diventano anche grandi allenatori. Avevo la speranza, che è una speranza anche umana nei suoi confronti, che l'Argentina ha talmente tanti fuoriclasse che bastava veramente mandarli in campo, ricordare loro che il pallone è quella cosa tonda e dire: guardate, si è riuscita a vincere questa partita. Lui è andato al di sotto del minimo storico, nel senso che le ultime convocazioni e gli ultimi schieramenti sono stati sinceramente imbarazzanti, al punto da pensare che la sua auspicata lucidità mentale si sia persa un pochino per strada. Questo è davvero un... Cioè, chi l'ha messo alla guida dell'Argentina credendo forse di fargli un favore, di fare un favore all'Argentina, così non ha fatto, e lo dico con affetto e dolore nei confronti di questo ragazzo. Non è andata così. Quando torni a trovarci, Marino? Tutte le volte che mi chiami, con grande piacere e con grande gioia, credimi, oltre che con grande affetto. Reciproci, come sempre. Grazie. Stavo guardando, e ti rubo gli ultimi secondi, figurati, perché l'incombenza è importante. Le grandi produzioni cinematografiche che ha fatto De Laurentiis, e ne ha fatte di veramente importanti, però ti lascio scegliere fra tre titoli: Hannibal, Il mostro e La cena dei cretini. Non saranno autobiografici, no? Faccia lei Bartoletti, faccia lei che sa. Grazie, ciao Marino, a presto. Prima dell'aggiornamento dei mercati, il tempo di una notizia che sarà Kubica a sostituire Alonso alla guida della Renault. Ha firmato stamane un contratto triennale, mi pare. Beh, è certamente un ascoltatore paziente, Dino da Torino, perché è in attesa da ormai da parecchi minuti. Dica, Dino, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo dire, parlando di Cassano, no? Sempre la solita storia di Cassano, che secondo me, anche se diventasse Maradona, Cassano non andrà mai in nazionale, perché Lippi ha della ruggine nei confronti di Cassano, perché non si sa questo, 2 o 3 anni fa, forse qualcosa in più, ebbe un diverbio con il figlio di Lippi in discoteca e Cassano picchiò Davide Lippi. E allora per questo, secondo me, non lo chiamerà mai e poi mai. Ma Dino, io credo che sia una questo è vero che questo paese ormai vive sul gossip e vive anche su gossip ben peggiori di questo, però io non credo che Lippi è un umorale, un permaloso, ammesso che l'episodio poi sia vero, ma insomma non credo che sia meschino. A questo punto Lippi sa da ambienti sampdoriani che la gestione di Cassano, anche adesso che rispetto a prima è oggettivamente risalito, sa che la gestione di Cassano è sempre abbastanza, continua a essere discretamente problematica, ci sono dei punti interrogativi sui comportamenti, e quindi ha deciso che per tutta questa fase delle qualificazioni, che tra l'altro non erano impossibili, no? E non richiedevano particolari apporti di nuove pedine, se la sarebbe cavata comunque. Poi avrà tutti i mesi centrali del campionato per valutare se davvero Cassano è un giocatore da aggiungere o non aggiungere a questa nazionale. L'avvio di stagione certamente suggerirebbe il sì, il prosieguo poi lo dimostrerà, ma valgono tutti i discorsi che si sono fatti prima, e vale soprattutto questa considerazione di fondo. Lei non dimentichi che al di là di quello che ci ha raccontato, e che ripeto va preso con molto beneficio d'inventario, Lippi ha vissuto una vita intera praticamente nella Sampdoria, e qualche contatto che ancora gli racconta come stanno davvero le cose ce l'ha. Franco, chiamato da Como invece, buongiorno. Buongiorno dottore, intanto la sento in diretta e tutte le volte, tutti i giorni l'ascolto volentieri. Grazie. Senta, visto la sua esperienza molto più ampia della mia, le chiedevo, io noto, vabbè, in una battuta potrei dire, tra pattoni si nasce, non si diventa, gli allenatori sono brave persone, quali Donadoni, Ferrara, piuttosto che altri, però ci vuole una... l'indole, ci vuole una preparazione, ci vuole qualcosa che proprio hai dentro. Ci vogliono anche, Franco, ci vogliono anche, scusi la interrompo solo un istante, ci vogliono anche le grandi squadre, perché quando Trapattoni è andato a Cagliari hanno esonerato anche lui, se ricorda. Sì, però Trapattoni dicono solo la Juve diventerà grande, poi ha dimostrato che anche all'Inter, Germania, anche l'Inter, al Bayern. Lippi ha fatto un po' meno, però io mi chiedevo se proprio manca una scuola, una preparazione, e come vede anche i settori giovanili, non c'è il gioco, non vedi l'1-2, vai sulla fascia, mordi le caviglie dell'avversario, gioca per vincere ma con la testa, guarda il gioco, stai a testa alta, cioè io noto queste carenze in generale. Ascolta la sua risposta per radio. Grazie. Io non le noto affatto, e anzi noto che la scuola di allenatori italiani mi sembra abbia sempre più apprezzamento all'estero. Mi pare che Capello abbia, Capello stiamo parlando di un leader assoluto, però Capello comunque ha rifondato l'Inghilterra ed era un'impresa che, non so, se pensa per esempio ai disastri che ha combinato Ericsson, che pure sembrava uno dei più grandi tecnici. Io credo che gli allenatori italiani nascano più imparati di altri, no? come avrebbe detto Totò. Nascono più imparati perché nascono e si misurano fin da subito con un calcio più difficile, e già si sono misurati quelli che di loro hanno fatto carriera di calciatore, cioè la stragrandissima maggioranza. Nascono con esperienze che li hanno forgiati, formati e forgiati, ma esperienze anche ambientali. Tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, no? I presidenti che non hanno pazienza, che non aspettano, che credono, insomma, che ti presentano l'investimento della vita e poi invece l'investimento di 3 partite, eccetera, eccetera. Mi pare che altri allenatori all'estero si siano fatti onore e se ne stiano facendo, mi pare che ce ne siano altri ancora che vengono cercati, perché Mancini ha già rifiutato almeno almeno quattro squadre straniere. Spalletti sta valutando se andare davvero a Leningrado, comunque dove c'è una realtà emergente, oppure se aspettare una grande panchina per il prossimo anno, ma col rischio che cambi la proprietà societaria e che quindi quell'accordo poi non venga più ritenuto valido. Insomma, mi pare ci sia una considerazione molto alta. Non mi pare che, con rarissime eccezioni, ma veramente rare, non mi pare che altrettanto si possa dire degli allenatori stranieri che vengono qua. Questa perlomeno continua a essere la mia opinione. Sentiamo ancora da Bari un ascoltatore e poi abbiamo un De Laurentiis da sentire. Vito, Bari, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione, l'ascolto tutti i giorni in quanto sono sempre in macchina a quest'ora. E mi volevo riallacciare al discorso che avete fatto prima di quel signore che diceva di Cassano, della convocazione. Guardi, è parecchio, è da 3-4 anni che a noi in città Bari girava questa voce di questo diverbio che ha avuto a parole tra Cassano e il figlio di Lippi in una discoteca a Milano, in sintesi. È una voce di popolo, però che è molto radicata qui, in quanto so che per un passaggio forse volevano che lui doveva passare sotto la gestione della GEA e a quel punto non si misero d'accordo. Ma non sarà un 2 più 2 un po' facilino, Vito, eh? Non sarà. Oddio, ci sono, se ne parlava ieri, ci sono i gossip che poi si concretizzano, no? Cioè, quando raccontavano che Adriano forse beveva, beh, insomma, poi qualcosina si è visto che il forse era, si poteva risparmiare. Questa sinceramente mi sembra un po' romanzata, ma poi soprattutto non può essere questo, soprattutto a distanza di tempo, non può essere questo. Questa è la spiegazione di una mancata convocazione, insomma, io non escludo. Insomma, non ci credo e basta. Non voglio nemmeno crederci, perché sarebbe davvero di una meschinità eccessiva fosse una cosa di questo genere. Ma non. Certamente, se Lippi un giorno decidesse di parlare, no, sull'argomento, invece di comportarsi come si è comportato ancora ieri, anche se io capisco il suo fastidio, perché non puoi sempre sentirti fare la stessa domanda. Ma se un giorno ci decidesse a dire, insomma, a tirare fuori altre ad articolare meglio, no? un discorso, lo farà, io credo, lo farà, però lo farà quando ci saranno le convocazioni serie per il Mondiale. Spiegherà o perché l'ha preso o perché l'ha lasciato definitivamente a casa, quando si arriverà alla fase decisiva. In questo ciclo non era previsto e in questo è stato coerente fino alla fine. Abbiamo parlato, un attimo di pazienza, un amico veronese, abbiamo parlato a lungo di questo cambio napoletano. Allora sentiamo una parte, un passaggio della conferenza stampa di De Laurentiis. Ritengo che Walter Mazzarri a tutti gli effetti sia la scelta più ponderata, più desiderata, più voluta, più giusta per il calcio Napoli in questo preciso momento. Non ho mai avvicinato né Mancini né Dario Rossi, ho sempre avuto fermamente nella mia testa il signor Walter Mazzarri. Per l'Europa per me esiste anche il sesto posto, certo che il posto del Napoli è tra i primi quattro, su questo non ci piove. Suggerivano dalla regia di andare a ripescare il discorso di insediamento di Donadoni sulla prima parte per trovare impressionanti analogie con quello che De Laurentiis dice oggi di Mazzarri, ma come d'altra parte accade ad ogni presidente quando decide di cambiare allenatore, non soltanto a livello così alto come quello napoletano, certamente avranno detto le stesse cose ieri a Trieste, l'altro ieri a Brescia, domani dove decideranno di cambiarne un altro, è una vecchia, sono vecchie gag, però già che ci siamo sentiamo anche la voce, insomma il debutto di Mazzarri nella veste di allenatore del Napoli. Per un allenatore che fa questo mestiere arrivare in una grande piazza, in una grande società, e quindi questo è il motivo per il quale non si può nemmeno esitare quando ti viene offerta la possibilità di allenare una squadra così. Vorrei cercare di essere preciso e sviscerare questa domanda al meglio, perché poi non vorrei più parlarne, per informare bene anche chi viene allo stadio. Mazzarri è un allenatore che può spero di saperlo far bene, può insegnare ogni tipo di modulo. Brutto segno quando uno parla di sé in terza persona, soprattutto al primo giorno del discorso di insediamento. Speriamo bene. Guido da Verona, buongiorno. Buongiorno, io intanto faccio i complimenti. Io volevo ritornare sul discorso di Cassano e di Lippi. Io non so se Cassano abbia avuto liti con il figlio di Lippi, però siamo sicuri di una cosa, che Roberto Baggio nel suo libro dice: siccome non ho fatto la spia a Lippi, Lippi mi ha tenuto fuori 2 anni. E non vorrei che fosse una persona un po' vendicativa da questo punto di vista, anche perché non mi pare che Lippi abbia mai smentito quello che Baggio scrive nel suo libro. Forse non ha neanche, forse, ma magari uno non può neanche però perdere il suo tempo a smentire tutto quello che dicono di lui. È un'accusa, no? È un'accusa duretta comunque. Ma sì, è un'accusa molto sgradevole. Se vuole inserirlo prima dei mondiali, se non comincia a inserirlo adesso, quando lo inserisce 2 partite prima? Ma 2 partite prima lo inserisce quando si fa le amichevoli e il percorso di avvicinamento al mondiale direttamente. Poi Cassano non è esattamente uno sconosciuto, neanche un bambino, c'ha 27 anni, quindi più o meno Lippi ha un'idea di come gioca Cassano, di come lo potrebbe inserire. Cassano ha già giocato in nazionale e non mi risulta che sia stato così decisivo, anche se in una delle 2 avventure ha fatto bene, quella dell'Europeo del 2004. Alessandro a Livorno manda un messaggio che secondo me riassume perfettamente la vicenda e scrive: devo fare un minimo di censura, m'hanno rotto a me le domande su Cassano, figuratevi a Lippi. Io controfirmo questo messaggio di Alessandro, del livornese Alessandro. Si parla solo di Cassano, scrive Michele da Padova, ma Pazzini non convocato è altrettanto importante, lei che ne pensa? Io penso che convocherei Pazzini e non Amauri come concetto, ma insomma, poi ciascuno fa le sue scelte e quelle di un commissario tecnico sono ovviamente più ponderate e più credibili. Prima di tornarci facciamo il ripassino quotidiano di storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 7 ottobre 1964. Ritorno del primo turno di Coppa dei Campioni. Il Bologna ospita l'Anderlecht, vittorioso all'andata per 1-0. Gli uomini di Bernardini giocano una gara perfetta, ribaltando il risultato con le reti di Pascutti e Nielsen. Ma all'ultimo minuto il centravanti belga Stockman gela il pubblico di casa, accorciando le distanze. 7 giorni dopo, nello spareggio disputato a Barcellona, il risultato non si schioderà dallo 0-0 nemmeno ai supplementari. Sarà una monetina a decretare la sfortunata uscita di scena del Bologna dall'unica Coppa dei Campioni mai disputata. Curiosa anche questa come precedente. Guardi che Davide Lippi e la Gea non sono gossip, come non lo era per il figlio di Moggi. Mai detto questo, ho detto che gossip è il preteso litigio tra i Rampolli, che sarebbe all'origine di questo. Quello è gossip, non certamente la Gea. La Gea era un'associazione a delinquere, mi risulta, o comunque per... Tale è stata valutata, no? Mi pare dai giudici, anche se poi ci saranno altri gradi di sentenza. Antonio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Io volevo porre 2 domande di numero. Sì. Una, se anche a suo avviso il presidente De Laurentiis dà l'idea della capacità di una squadra che sia proporzionale a ciò che si spende per questa. Cioè lui dice di aver speso molto, di conseguenza la squadra deve essere forte. Sa il presidente, forse non ha esperienza, che nel calcio bisogna avere una situazione programmatica, il programmare le cose. Sì, perché se bastassero i quattrini, ma questo credo non solo nel calcio, no, credo in ogni campo della vita. Cioè se io tanto compro, tanto investo e tanto devo avere di ritorno, beh, insomma, sarebbe abbastanza semplice la vita, no? Le pare? Certo. Volevo poi porre un'altra domanda, la colpisco al cuore, dottor Garanzini. Al cuore? Come verrebbe, sì, al cuore, penso di sì, il Paron, come lo verrebbe su una panchina come quella di Napoli, non grande come quella di Milano, ma nemmeno come quella di Padova, più provinciale? Beh no, Padova era provincia, ma era altro che Napoli. A parte che... Il Paron lo vedrei bene in campo con Napoli, come c'è stato per 3 anni, perché questo è un aspetto abbastanza sconosciuto della carriera di Rocco, non allenatore ma giocatore. Lui giocò 3 stagioni a Napoli, poi ebbe infortuni abbastanza pesanti in quegli anni, ma giocò comunque una cinquantina, credo, di partite in tre stagioni, alla fine degli anni 30, inizio 40, tant'è vero che il suo primogenito nacque a Napoli. Ed è nato, pur essendo triestino a tutti gli effetti, è nato a Napoli. Panchina non lo so, non creda che i presidenti di allora fossero, erano diversi rapporti, era un altro calcio, c'era un altro modo di viverlo e di intenderlo, ma non creda che i presidenti di allora fossero tutti degli scienziati. Rocco poi doveva convivere anche lui e ha convissuto anche lui con i capricci dell'uno o con le ingerenze dell'altro, dal Milan se ne andò con una Coppa dei Campioni appena vinta, perché non sentiva più l'ambiente favorevole, e quando ovviamente a Coppa dei Campioni vinta gli dissero: ma come, lei se ne va? Lui disse: sì, ho dato la mia parola a un'altra squadra. Al presidente del Padova, Pollazzi, a cui piaceva ogni tanto mettere il naso in spogliatoio, come ha fatto De Laurentiis nelle ultime domeniche, Pollazzi un giorno entrò, cercò di non mettere mano alla formazione perché sarebbe finita male, ma insomma di suggerire un paio di nomi. Rocco fece finta di non ascoltare, e dato che il presidente, poi non avendo avuto udienza, non era di ottimo umore, e tornò a fine partita, la partita l'avevamo persa e c'erano un po' di musilunghi, il presidente si sedette davanti a Rocco su una di queste panche da spogliatoio con l'aria un po' torva, e Rocco gli disse: presidente, dei musilunghi qua dentro che se ne è abbastanza, insomma, cose di questo genere, e lo cacciò fuori, sia pure con i dovuti modi. Non so come se la sarebbe cavata con De Laurentiis, allora era calcio, oggi è cinema, sinceramente me ne intendo meno. Stefano da Napoli è già intervenuto, Roberto mi pare, Roberto da Modena. Sì? Sì, dica, buongiorno Roberto. Grazie signor Garanzini di poter partecipare. Senta, volevo solo aggiungere un appunto dal signor Lippi, perché sul signor Lippi, perché io sono un interista, no? E ricordo bene la sciagurata gestione dell'Inter di Lippi. In più, in particolare, quando ci ha lasciato, disse che aveva rinunciato a un pacco di soldi, prontamente smentito dopo due giorni dal presidente Moratti, che disse che l'IPI li aveva voluti tutti. Quindi questo ci dà un po' più il quadro del personaggio. Ecco, solo questo volevo dire. Il quadro complessivo del personaggio non è esaltante dal mio punto di vista. Questo però non toglie che ci siano degli argomenti che può anche avere ragione. C'è un altro Stefano napoletano, ecco il perché dell'equivoco di prima. Dica, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, faccio gli auguri a voi e a tutta la radio. Grazie. Sono un pochettino anche io vecchio, l'anno scorso dove era alle 24. Sì. Niente, la mia domanda era, cioè volevo dare più o meno un merito al nostro presidente, innanzitutto di fare quando meno apparizione possibile in televisione. Cioè, questo è un consiglio o... È un consiglio. Ho capito, da noi tifosi napoletani queste cose qua, cioè non voglio dare un merito come Allerchino, gli do una maschera come Pulcinella, già ce l'abbiamo a Napoli, mi spiego? Spiega benissimo. Non so se ho reso l'idea, comunque con questa la saluto e tanti auguri di nuovo. Grazie Stefano. Comunque è una ricetta infallibile. Se si vuole portare un bricio di allegria con un napoletano verace, con un napoletano verace non si sbaglia mai. È per questo che De Laurentiis sarà pure un napoletano verace, ma insomma. Ha vissuto troppo poco Napoli, evidentemente, o perlomeno negli ultimi anni. C'è un problema per la nazionale, al di là di quelli di quelli finti o comunque di quelli meno concreti, meno attuali. Un problema c'è, perché Marchisio, che mi sembra stia diventando un giocatore chiave per la Juventus, sicuro, perché a Palermo non c'era e si è visto come è saltato per aria il centrocampo della Juventus, ma secondo me sta diventando un giocatore chiave anche per quello della nazionale di centrocampo. Marchisio è un problema che potrebbe essere addirittura un menisco. Stamattina l'ha visitato il medico azzurro Castellacci e ha diagnosticato una meniscopatia esterna al ginocchio sinistro. Ha aggiunto che rimarrà in nazionale per 2 o 3 giorni. Venerdì ci sarà una valutazione finale, se è possibile un recupero, sia pure temporaneo. In questo caso seguirà la squadra a Dublino, se no tornerà a casa, e saranno poi, ha spiegato Castellacci, i medici della Juventus a quel punto a valutare le terapie da seguire. Abbiamo concluso anche per oggi, vi do appuntamento a domani dopo aver salutato e ringraziato tutti voi, Guido Scotti in redazione e Fabio Cantadori in regia. Buon pomeriggio a tutti.